Come condurre un'anima alla conoscenza di Gesù Cristo? Studio tratto dalla fede. Prima trasmissione. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il nostro Dio vi dia di crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Conosco molti figli di Dio che hanno il desiderio di testimoniare di Gesù Cristo e più di questo bramano di condurre alla salvezza qualche anima, ma si rendono conto di essere incapaci. Questo li rende oltremodo tristi perché nel segreto del loro cuore pensano di non essere abbastanza sottomessi allo Spirito Santo, il quale è il solo ad essere in grado di convincere di peccato. Una tale mancanza è certamente possibile, ma il più delle volte ho riscontrato che non si tratta di carenza nella sottomissione a Dio, ma piuttosto nel metodo. È vero che lo Spirito Santo agisce come vuole anche senza schemi, ma poiché noi siamo esseri umani, abbiamo bisogno anche di un messaggio che sia comprensibile e logico alla nostra mente. Se per poter credere devo conoscere in chi devo credere, per conoscere devo comprendere il messaggio. Nel libro degli Atti leggiamo che Paolo e Barnaba parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Così, dato che a volte le anime non vengono alla conoscenza del Vangelo perché questo non è stato spiegato loro chiaramente, desidero in tre trasmissioni spiegare ai figli di Dio il metodo che si dovrebbe usare per spiegare il messaggio della salvezza alle persone. Perché il mio discorso sia più diretto, in queste trasmissioni mi rivolgo in prima persona. Innanzitutto ricordati sempre che devi annunziare una persona a un Salvatore e mai una religione. Al proposito, non dimenticare quello che è scritto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 1. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione, poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Paolo, uno dei più grandi missionari, predicava Gesù Cristo crocifisso. Abbiamo letto all'inizio della sua prima lettera ai Corinzi che egli nomina Gesù Cristo 10 volte in soli 10 versetti. E anche per questo che ha portato molte anime a Cristo. Non lasciarti quindi trascinare da filosofie moderne, da religioni esoteriche, predica la persona di Gesù quale Salvatore, Signore, che è morto e risorto, e vedrai molte anime essere strappate dal potere di Satana per entrare nel regno di Dio. Se vuoi comunicare agli altri il messaggio del Vangelo, devi dimostrargli il loro stato di peccatori. Uso il verbo dimostrare e non annunziare, perché dichiarare al tuo ascoltatore che è un peccatore non basta. Devi anche dimostrarglielo con la scrittura, almeno in 2 modi. Innanzitutto, devi dirgli che egli è un peccatore perché discende da una razza peccatrice e per questo è destinato alla morte. Al proposito, puoi leggere nella lettera ai Romani al capitolo 5, perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La morte è tanto comune che ormai nessuno ci fa più caso. Eppure, la morte è la testimonianza più evidente che tutti siamo peccatori. Perché la razza umana è votata alla morte? Le spiegazioni dal versante della scienza possono essere varie, ma un dato di fatto è incontestabile. Il mondo va sempre più peggiorando. La morte testimonia che in questo mondo è subentrato qualcosa che corrompe ogni cosa. Questo qualcosa è il peccato. Si muore perché si è peccatori. Il peccato, secondo la scrittura, ci è stato trasmesso dai nostri progenitori, Adamo ed Eva. Inoltre, occorre fare sapere al tuo interlocutore che se non è nato di nuovo, è figlio di Satana. La testimonianza della scrittura nella prima lettera di Giovanni è molto evidente. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Per essere dei figli di Satana, Gli uomini non devono fare nulla, nascono tali. Non importa quanto una persona sia brava o meno. Essere figlio di Satana non è questione di fare, ma di essere. L'espressione figlio di Satana non ha a che fare con il comportamento, ma è uno stato di separazione da Dio nel quale tutti gli esseri umani si trovano al momento della nascita. Proprio per questo il cattolicesimo ha ideato il battesimo dei bambini, perché diventino figli di Dio. Anche se la pratica, secondo la scrittura, non serve, almeno essa testimonia che anche la religione cattolica crede che tutti i bambini nascano perduti. Quando presenti il Vangelo è indispensabile chiarire che ogni uomo è anche per nascita figlio d'ira, cioè nasce sotto l'ira di Dio. Non è certamente carino dire questo al prossimo, ma è la realtà spirituale nella quale tutte le persone si trovano se non hanno creduto in Cristo. L'Apostolo Paolo lo dice in modo chiaro. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Paolo si è riconosciuto, per nascita, come tutti, degno dell'ira di Dio, eppure viene chiamato San Paolo. Paolo non era nato santo, ma lo è diventato in seguito mediante un atto di fede in Cristo. Perciò si nasce sotto il giudizio di Dio, indipendentemente dalla famiglia in cui nasciamo, e diventiamo giusti agli occhi di Dio mediante un atto di fede in Cristo. Anche l'Apostolo Giovanni parla molto dell'ira di Dio e la vede come una situazione stabile. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Secondo Giovanni, chi non crede in Cristo non cade sotto l'ira di Dio, poiché questa è già sopra di lui. Per nascita, ogni uomo è sotto la condanna di Dio e per questo è senza Cristo e senza Dio. Paolo lo dice molto chiaramente nella lettera agli Efesini. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. L'Apostolo aveva scritto a dei non giudei che erano per nascita senza Cristo, senza speranza, senza Dio. Questa è la situazione di ogni uomo al momento in cui entra in questo mondo. Alcuni però cercano con le opere di migliorare la situazione, ma occorre ricordare che nonostante ci sia la buona volontà, il bene che si vorrebbe fare non si fa. L'Apostolo Paolo dà questa testimonianza nella lettera agli Romani. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io ad agire, ma il peccato che abita in me. Per il fatto che in noi vi sono due volontà, una che tende a fare il bene, l'altra che spinge a compiere il male, abbiamo la dimostrazione che nella nostra natura umana abita il peccato. Il peccato non è solo qualcosa che facciamo, ma è ciò che abbiamo dentro di noi. Poiché per istinto tutti cerchiamo di meritarci la salvezza, quando annunzi il Vangelo dimostra al tuo interlocutore che siamo tutti trasgressori della legge di Dio almeno per due motivi. Il primo è che tutti siamo trasgressori perché Dio ha dato una legge. Infatti Paolo ha giustamente notato che dove non che è legge, non vi è neppure trasgressione. Se Dio non avesse dato una legge, nessuno sarebbe colpevole. Ma poiché vi è una legge da osservare, nessuno può ritenersi giusto senza colpa. Inoltre, siamo tutti trasgressori perché, come testimonia onestamente Paolo, il bene che si vorrebbe fare non si fa. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma il peccato che abita in me. Il peccato che abita in noi ci spinge a compiere il male. Chi non ha mai fatto ciò che non avrebbero voluto fare? Chi non ha detto una parola che non avrebbe voluto dire? Significa che chi è qualcosa in noi che è più forte di noi stessi. E questo si chiama peccato. Infine, se vuoi che le anime vadano a Cristo, devi dimostrargli che chi commette il peccato non può ereditare il regno di Dio. A proposito, puoi leggere ciò che è scritto nella lettera ai Galati, al capitolo 5. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Accettare di essere un peccatore e perciò perduto è la parte più difficile per chi ascolta il Vangelo. Ma è indispensabile far assimilare questa verità. Nessuno invoca un Salvatore se non si rende conto di essere un peccatore. Quindi è normale che la gente cerchi in qualche modo di evitare un finale dove si trovi costretto a confessare il proprio fallimento, per cui è possibile che il tuo interlocutore esponga delle obiezioni. Perciò devi essere preparato per rispondere con la parola di Dio. Ma di questo ne parleremo nella prossima trasmissione. L'Eterno ti dia sapienza in merito. Ciao! Seconda trasmissione. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ha rigenerati tutti coloro che hanno una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Continuo in questa trasmissione alcune riflessioni indirizzate ai figli di Dio, che sono desiderosi di testimoniare della loro fede posta in Gesù Cristo. Con loro parlo in prima persona. Abbiamo preso atto che quando una persona ascolta il Vangelo è portata ad esporre delle obiezioni prima di accettarlo così com'è. Consideriamo in questa trasmissione tali obiezioni è una possibile risposta. La prima reazione è quella di non sentirsi un peccatore. Se la persona afferma di non aver peccato, leggi le seguenti affermazioni della Scrittura. Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecclesiaste 7:20. Non c'è, è infatti alcun uomo giusto sulla terra che faccia il bene e non pecchi. Io sono profondamente convinto che nessuno pensa di essere perfetto. Perciò la lettura di queste dichiarazioni potrebbe sembrare inutile, ma è sempre necessario ricordarle affinché nessuno possa replicare. Quando la parola di Dio afferma che tutti hanno peccato, che nessuno è giusto, non resta che accettare tale sentenza. Di fronte ad un simile esame di condanna, qualcuno accetta anche di essere un peccatore, ma non crede di essere poi così corrotto. Accetta di essere un peccatore, ma non così depravato. Ma Gesù, in merito, non lascia spazio. Ecco cosa disse Gesù nel Vangelo di Marco. Ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Se non si è figli di Dio, il male che si fa non è un incidente nella propria vita, ma la normale espressione della nostra natura corrotta. Vi sono persone poi che accettano di essere dei peccatori, ma non accettano di essere degni di andare all'inferno. Queste persone credono che la quantità dei loro peccati non sia sufficiente per meritare la perdizione. Giacomo nella sua lettera mette in evidenza che non è tanto il numero di peccati che ci fa essere colpevoli. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Dunque non sono il numero dei peccati che ci rendono colpevoli. Come per un uomo che viene fucilato. Per morire non conta il numero di pallottole che riceve, ma ne basta una mortale. Il peccato, qualsiasi peccato, anche solo uno, ti condanna alla morte. Ricordalo. Tutti disperatamente desideriamo evitare la condanna di Dio, questo è istintivo. Perciò, quando parli con le persone, ti renderai conto che in fondo molti ritengono di essere moralmente buoni. Eppure Gesù fu molto chiaro a riguardo. Ecco cosa leggiamo nel Vangelo di Luca. Uno dei capi interrogò Gesù dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio». La risposta di Gesù non voleva dire che in questa vita non ci sono persone buone, ma che la bontà, nella sua essenza, esiste solo in Dio. Noi abbiamo ereditato una natura corrotta, depravata, ma questo non toglie che non siamo in grado di agire anche nel modo appropriato. Gesù disse: «Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Coloro che credono alla totale depravazione dell'umanità per arrivare ad affermare la predestinazione dei salvati hanno dimenticato questo aspetto. Tu fai comprendere che nessuno è buono da meritare la salvezza e che solo Dio è buono nella sua essenza. Succede poi che alcuni, poiché Dio è buono, pensino che alla fine tutti saremo perdonati. Ma la parola di Dio, nella lettera agli Ebrei, in merito è molto precisa. Noi infatti conosciamo colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». E altrove: «Il Signore giudicherà il suo popolo». E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Spesso si dice che il Dio dell'Antico Testamento è severo, mentre Gesù ha parlato di pace e amore, ma questa opinione contrasta con la realtà della parola di Dio. Chi non ha posto fede in Cristo, chi non è stato lavato dal suo sangue, cade inesorabilmente nelle mani di Dio che lo giudicherà senza pietà. Chi non ha riconosciuto il proprio peccato sarà ritenuto colpevole davanti a Dio. Così si esprime il profeta Isaia: «Poiché lo Sheol non può lodarti, la morte non può celebrarti, quelli che scendono nella fossa non possono più sperare nella tua fedeltà. I morti non possono sperare nella bontà di Dio». E ora, e solo ora, che Dio perdona in Cristo Gesù. Quando leggiamo nel libro dell'Ecclesiaste: «Se un albero cade a sud o a nord, nel posto dove esso cade, là rimane», significa che la condizione spirituale di chi muore rimane immutata. Se è perduto nell'aldilà rimane perduto, se è salvato nell'aldilà rimane salvato. Nessuno di noi può e deve sperare in una ipotetica misericordia di Dio quando è morto. L'universalismo, il quale insegna che Cristo, dopo essere morto per tutti gli uomini, li salverà tutti in virtù delle sua grazia sovrana, non ha nessun fondamento biblico. Gesù ha tolto ogni dubbio. Nel Vangelo di Matteo ha espressamente detto: «E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età, né in quella futura. Chi rifiuta l'opera dello Spirito Santo compie un peccato imperdonabile per l'eternità». Quando presenti il Vangelo troverai anche delle persone che ti diranno: «Non è forse morto Gesù Cristo in croce per noi? La sua morte non ci ha garantito una salvezza per tutti? È vero che il Figlio di Dio è morto in croce per salvare tutti gli uomini, ma è pure vero che la sua opera, se non viene accettata dal singolo, non sarà valida per tutti? Noi non possiamo accettare solo un aspetto del sacrificio di Cristo, ma dobbiamo accettare l'intero pacchetto del Vangelo. Il Vangelo, cioè la buona notizia che Gesù è il Salvatore, presenta pure un Gesù che un giorno farà vendetta di tutti coloro che non hanno posto fede in Lui. L'Apostolo Paolo scrisse le seguenti parole ai credenti di Tessalonica: «Chi attua se stemon? È cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà, in quel giorno, per essere glorificato nei Suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Purtroppo spesso non viene messo in evidenza l'aspetto che Gesù è e sarà il giudice del mondo. Colui che ha salvato potenzialmente tutti sarà colui che giudicherà ogni cosa. Come non esiste luce senza tenebre, non vi è l'amaro senza il dolce, così non vi è amore senza giustizia. E, molto importante che chi ascolta il Vangelo abbia presenti i due aspetti di un'unica verità. Non è buono parlare solo dell'amore di Dio, come non è buono parlare solo del giudizio di Dio. Vi sono organizzazioni che predicano il Vangelo mettendo l'enfasi sul giudizio di Dio su eventi catastrofici futuri e un paradiso preparato per loro, mettendo da parte l'aspetto di quanto Dio abbia amato il mondo. Altre organizzazioni parlano solo dell'amore di Dio. Tu che predichi il Vangelo hai la responsabilità di presentare tutto il consiglio di Dio, devi dire che l'Eterno Dio è un Dio di pace, ma anche di guerra, che è un Dio d'amore, ma anche di giustizia, che ama chi fa il bene, ma odia chi fa il male, che salva il peccatore, ma lascia andare in perdizione chi non vuole credere. Non è raro trovare delle persone che quando ascoltano il Vangelo, dopo aver compreso che sono mancanti davanti a Dio, sostengono comunque che non meritano la condanna eterna. Sì, si riconoscono colpevoli, ma non meritevoli di condanna. È molto difficile dissuaderli da una simile convinzione, perciò è più che opportuno leggere ciò che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni. Or, c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio». Nicodemo era un religioso e migliore di molti altri, ma Gesù gli disse che è impossibile entrare nel regno dei cieli se non vi è una nuova nascita. Perciò non conta quello che uno fa, ma quello che egli è. Chi non è nato di nuovo è perduto. Ho conosciuto delle persone che dopo aver ascoltato il Vangelo si pentivano dei loro peccati, ma anche questa situazione, benché sia auspicabile, non è sufficiente per accettare Gesù come il proprio Salvatore. L'episodio di Giuda, l'apostolo, descritto nel Vangelo di Matteo, è eloquente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire e, legatolo, lo condussero via e lo consegnarono nelle mani del governatore Ponzio Pilato. Allora, Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa, pensaci tu». Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Giuda riconobbe di aver sbagliato, si pentì di quello che aveva fatto, ma non chiese perdono. Come sbloccare chi si pente ma non è disposto a credere in Cristo? Una soluzione è quella di parlare della conseguenza del peccato. Non si deve dire agli uomini che sono peccatori per il solo gusto di giudicarli, ma perché ci è una ragione fondamentale. Il peccato separa l'uomo da Dio e lo condanna a morte. Il profeta Isaia lo ha detto chiaramente: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. L'Eterno era disposto ad operare a favore del popolo, ma riconobbe che erano i loro peccati ad impedire a Dio di operare. Il peccato separa inevitabilmente l'uomo da Dio. Cosa fare allora? Nella prossima trasmissione vedremo come Dio abbia risolto il problema del peccato. Ciao a tutti e a risentirci a presto. Terza trasmissione. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti alla nostra ultima trasmissione dedicata in modo particolare a coloro che sono figli di Dio e che hanno in cuore di testimoniare del loro Salvatore, Gesù Cristo. Con loro continuo a parlare in prima persona. Dunque, dopo che hai compreso che devi predicare non una religione ma la persona di Gesù Cristo, dopo aver dimostrato che per natura siamo tutti peccatori e perduti, è giunto il momento di dimostrare che, con i propri mezzi, non è possibile salvarsi. Una volta che una persona è convinta di peccato e di essere perduta, cercherà di risolvere il problema in tanti modi, ma rimane la granitica verità che agli uomini è impossibile salvarsi con le proprie capacità. Gesù è stato categorico nel Vangelo di Matteo. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: «Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Un giorno qualcuno mi disse: invece di ricevere Gesù come mio Salvatore, mi ero fatto un Salvatore con le mie buone opere. Se Gesù non salva nessun altro, ma proprio niente e nessun altro, può salvare noi uomini». Una volta arrivato a questa conclusione radicale e tragica con il tuo interlocutore, occorre presentare la beata verità che Dio offre la salvezza all'uomo. Poiché l'uomo non è in grado di risolvere il problema del peccato, Dio offre la salvezza gratuitamente, per grazia, mediante la fede. Che Dio offra la salvezza gratuitamente, Paolo lo dice nella lettera ai Romani: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che la salvezza sia per grazia, Paolo lo dice alla lettera degli Efesini. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Che la salvezza sia per mezzo della fede, Paolo lo dice sempre nella lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non vi può essere altro Vangelo che questo. Con il passare dei secoli gli uomini hanno inventato tante dottrine e filosofie, usano la scrittura per approvare i loro pensieri, ma in tutta la parola di Dio viene evidenziato in maniera macroscopica il piano di Dio, piano che consiste nel dichiarare che l'uomo è perduto, che non può salvarsi con nessun mezzo, che la salvezza è un dono di Dio che deve essere ricevuto solo per grazia mediante la fede, una verità che deve essere ripetuta finché ci è un solo abitante sulla terra e che la salvezza dell'uomo è solo in Cristo. Quando una persona sta annegando, tende ad afferrare qualsiasi aiuto che gli venga offerto. Così è della salvezza. Quando uno comprende di essere irrimediabilmente perduto, egli si rivolge a chiunque, pur di essere salvato. Ma, a discapito di ciò che viene insegnato da molti, la salvezza è solo in Cristo Gesù. Secondo la parola di Dio, Gesù è l'unico che è morto per i peccati degli uomini. 1 Timoteo 2, 6. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. 1 Timoteo 2, 5. Gesù è l'unico nome mediante il quale l'uomo può essere salvato. Atti 4, 12. Gesù è l'unico cibo spirituale per la salvezza. Giovanni 6, 48. Gesù è l'unico che può illuminare le tenebre dell'uomo. Giovanni 8 e 12. Gesù è l'unico che conosce il Padre e può farlo conoscere. Matteo 11 e 27. Gesù è l'unica via per andare in cielo. Giovanni 14, 6. Gesù è l'unica porta per entrare in cielo. Giovanni 10, 7 a 9. Gesù è l'unico sacrificio valido per la salvezza dell'uomo. Ebrei 10, 22 e 28. Gesù è l'unico maestro, Matteo 23, 8. Gesù è l'unica guida, Matteo 23, 10. Gesù è l'unico che si è dichiarato Dio, Giovanni 8 e 58. Gesù è l'unico vero sommo sacerdote, Ebrei 4 e 14. Gesù è l'unico capo della Chiesa, Efesini 1 e 22. Gesù è l'unica pietra angolare della Chiesa, Efesini 2 e 20. Gesù è l'unico che ci mette in contatto diretto con Dio, Ebrei 10, 19 e 22. Gesù è l'unico che intercede per i cristiani, Romani 8 e 34. Gesù è l'unico avvocato che difende i cristiani davanti a Dio, 1 Giovanni 2, 1. Gesù è l'unica persona da predicare, Galati 1, 8. Gesù è l'unico risorto vivente in eterno, Luca 24, 6. Gesù è l'unico che è salito in cielo, Giovanni 3 e 13. Gesù è l'unico che deve tornare per regnare sulla terra, Atti 1 e 11. Gesù è l'unico giudice dei vivi e dei morti, Atti 10 e 42. Gesù è l'unico che ha in mano la sorte della nostra anima, Matteo 10, 32 e 33. Gesù è l'unico che dà la vita eterna, Giovanni 10 e 27. Il cristianesimo ha la pretesa di essere unico. In un mondo dove tutto è relativo, dove si cerca un accordo a tutto, il Vangelo stona. Ma, per un cristiano, il Vangelo rimane l'unico messaggio di salvezza. Poiché Cristo rimane l'unico Salvatore, è necessario presentare l'opera di Cristo. Si possono dire molte cose su Gesù senza alla fine dire nulla di fondamentale, perciò una sola affermazione di Paolo nella prima lettera a Timoteo rimane lapidaria, questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Noi non possiamo pensare di Gesù ciò che vogliamo. Gesù non è venuto per dire che egli era il migliore degli uomini, il miglior profeta, ma è venuto per salvare tutta l'umanità. Nel Vangelo di Marco, Gesù lo dice chiaramente. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ciò che Gesù disse non erano solo parole, ma una realtà. Gesù ha dovuto dare la sua vita come prezzo di riscatto, portando i peccati di tutti nel suo corpo. Questo atto d'amore gli è costato il severo giudizio di Dio. Il profeta Isaia lo disse 700 anni prima. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Gesù ha ricevuto su di sé la condanna del peccato, condanna che aspettava tutti noi. Per la sua morte chi pone fede in lui riceve la vita. Questo è il bellissimo messaggio che troviamo nella parola di Dio, e solo nella parola di Dio. Così, una volta che il tuo interlocutore è arrivato a questa conclusione, ora è giunto il momento di dirgli cosa deve fare. Deve permettere a Gesù di essere Dio nella sua vita. Nella sua vita, dico, perché Gesù è Dio comunque. Quindi, uno, deve accettare ciò che Gesù Cristo ha detto di se stesso. Due, deve accettare ciò che Gesù Cristo ha detto di noi stessi. Tre, deve accettare il rimedio. Quattro, deve chiedere in preghiera che Gesù diventi il suo Salvatore e Signore. 5. Deve confessarlo. È sufficiente che tu legga nella lettera ai Romani, al capitolo 10, le seguenti parole: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione. Per ottenere salvezza, perché la Scrittura dice chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Credo che non ci sia nulla da aggiungere. Quando una persona nell'ascoltare il Vangelo arriva a porre fede in Cristo quale Salvatore e Signore, è giunto il momento di ricordargli i risultati della sua decisione. Innanzitutto, egli è salvato. Molte sono le affermazioni della parola di Dio al riguardo, ma una sola è sufficiente. Si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La salvezza è un'esperienza spirituale molto profonda. Chi pone fede in Gesù realizza una nuova nascita. Passa dallo stato di morte alla vita, cioè la comunione con Dio. Proprio perché chi crede in Gesù Cristo nasce di nuovo, egli diventa figlio di Dio, entra a far parte della famiglia di Dio. Il Vangelo di Giovanni non lascia dubbi. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Come dice la Scrittura, si diventa figli di Dio mediante un atto di fede, e non per un atto religioso, quale il battesimo dei neonati messo in pratica dal cattolicesimo. Inoltre, chi crede nell'opera sostitutoria di Cristo riceve lo Spirito Santo e con esso l'amore di Dio, la forza e l'amore per i fratelli. Ricordagli che, se ha scelto Cristo, non è perché ha seguito la via dei suoi padri, perché ha avuto un guadagno materiale, perché non sapeva cosa fare, perché è stato sedotto da qualcuno, perché era deluso in amore, ma perché, essendo perduto, ha avuto bisogno di un Salvatore. Poi prega per lui e insegnagli che la preghiera è il primo legame spirituale che ha con coloro che sono salvati. Dimostragli che la tua vita si basa sulla preghiera, pregando con lui e prendendo l'impegno di pregare per lui. Infine presentagli una chiesa locale da frequentare. La vita cristiana non si può esprimere da soli. È importantissimo che il nuovo convertito sappia di dover appartenere ad una chiesa. Queste sono, in linea di massima, le verità più importanti per condurre un'anima alla conoscenza di Gesù quale Signore e Salvatore. Vorrei riassumere il tutto con l'ultima riflessione. Gesù pregò nel Getsemani: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Il senso della domanda era: «Padre, non vi è veramente altra via che bere questo calice?». Gesù non ebbe una lunga spiegazione, ma la sola risposta: «No, non c'è, è altra via». La risposta di Dio basta all'anima del credente. La croce di Cristo era ed è la sola possibilità per la riconciliazione del peccatore. Se è così, se la croce di Dio era ed è la sola e ultima possibilità, allora deve essere pure la nostra sola possibilità per essere salvati. Predica questo Vangelo, la potenza di Dio per chiunque crede. Che la sua forza ti assista. Ciao a tutti, e a risentirci con altri interessanti argomenti. Luglio 2004. Ellero.